scritto tutte le tre le cose, HF 747 booster, dentro praticamente c'è un circuito stampato marcato proprio RM Italy KL203. Anche Franco Di Sorsa aveva dato la conferma, probabilmente l'aveva visto dentro, però le vecchie versioni credo di no, credo che fosse diverso. Vai Gianni. E io ce l'ho la vecchia versione. KK, comunque hanno i finali a MOSFET e quelli fanno sì che non distorca la radio, capito? Invece quelli CTE, quelli della ZG non hanno i finali a MOSFET, sono fatti grigi proprio. Io sono il modello che hai tu già, ma c'hanno il finale a MOSFET e quelli. Il mio è l'ultima versione della RM Italia, come si chiama? RM Italy. È il nostro che marcheggia, CTE. Sì, il mio è CTE, sì. CTE. E anche il mio. Aspettate un attimo, mi stanno chiamando. Vai Marco. Sì, perché poi la CTE... Non so se sia nemmeno più il catalogo, è già, non mi ricordo, però io ho guardato il sito Midland Europe, vabbè, è scritto Europe, e mi pare che non ci sia più il 747, è come se non lo commercializzassero più. Poi che il GBC ce l'ha, perché a quei prezzi ce l'avrà da anni. 90 euro la GBC, vai e compratelo. Ma sapete quanto costa? L'ho trovato nuovo, dentro la scatola su eBay, 55 euro più 10 euro di spedizione. 9? Su eBay. Poi bisogna avere la carta lì, pagamento PayPal, eccetera. Non li vado di più in contrassegno, io lo compro solo in contrassegno, non ne faccio carta. Non mi piace a me con questo metodo che stanno usando adesso. Contrassegno e basta, quando arrivi a casa lo pago, se no non li posso più, me ne hai già fottito una busta, e anche tu lo sai Claudio. L'ho preso anche io in culata, no già, rassegnati perché il contrassegno è stato tolto. Bonifico bancario hanno lasciato, capito? Solo bonifico bancario. Oppure PayPal e poi pay, basta, contrassegno, toglito dalla testa, non esiste più, proprio l'hanno tolto, tutti i rivenditori hanno tolto il contrassegno. No, ho comprato la cassa da poco col contrassegno, me l'hanno portata sì da casa, ho pagato quando è arrivata. Non le dire perché certe ditte ce l'hanno il contrassegno tranquillamente. Io ho comprato la cassa, quando viene a casa te la faccio vedere, una cassa che sola socca a voci. E c'ha radio, c'ha praticamente la prima USB, leggere i MP3, tutte queste cose qua fa. Molto bella. E sono veramente forte, non si può manco tenere in casa quel volume lì. Io non ce l'avrei comprata. Se tu vai su eBay, se tu entri su eBay, sul sito di eBay c'è scritto che il contrassegno non è più valido. Capito? I rivenditori di eBay, o quei rivenditori che vendono radio HF, VHF, UHF, quelli che noi conosciamo, non fanno contrassegno. Bonifico bancario oppure PostePay o PayPal. Vabbè, in ogni caso, se c'è quel problema lì, già c'ho a Marco, mio figlio che ce l'ha e me lo faccio fare da lui. Io non li voglio fare, ogni volta devo togliere i soldi, metterli nel suo conto, lui dal conto, paga. Lo so, una rottura di balle. Io non ne ho mai fatto, non mi interessa. Quando ho comprato, io ho le ditte che mi conoscono e niente, faccio direttamente il bonifico. Vado in banca, faccio il bonifico, appena arrivo al bonifico che immediato mi spediscono la roba, capito? In questo caso invece se le radio che sto vendendo, se ne sta occupando Luca, va bene così, non c'è problema, si paga le commissioni, si paga quello che si deve pagare, non è un problema, capito? A ricevere va bene facendo così, ma quando devi acquistare preferisco acquistare io con bonifico bancario. A meno che non siano 10 euro, 20 euro, come questi 26 euro del commutatore, l'ha comprato Luca, l'ho ricaricato la carta a lui e l'ha comprato lui. Però sono pochi spiccioli, capito? Ma quando io ho comprato radio da 1000 euro, 1500, 2000 euro, 1300, 1800, 600, 700, mangiando a tal bombolo, che prendi Marco? Scappa, no, no, non stavo mangiando, no. Ma comunque in certi posti sono affidabili, perché se no la cosa non te la racconte, come si dice, la roba, se non ti arriva, ti restituiscono i soldi, cioè è proprio affidabile come cosa. C'è una cosa tutta particolare adesso, cioè quindi poco da butti vale, soprattutto su Amazon è più tranquillo, a quanto mi hanno detto. Amazon, anche se arriva roba che non ti piace, che non è come quella che ho ordinato tu, nella mano indietro ti va nessuno. Sì, mi sta facendo un reso mio figlio su Amazon, ci ha rubato le scarpe, hanno sbagliato il numero, ha già chiamato e sta facendo un reso, capito? Lì compra con la carta di credito, c'è la carta di credito, compra con la carta di credito. Ma io non mi fido, Claudio, a mettere la carta di credito su internet, è sempre meglio mettere una carta tipo PayPal oppure PostPay, eccetera, perché la carta di credito se te la clonano è un casino. Sì, basta fare una qualunque prepagata già, anche queste N26 oppure Hype come questa che ho io, puoi fare anche i bonifici dalla carta, è come avere un conto ma non ne hai conto. Sì, sì, lo so. Passo, allora, sarò all'antica Marco, ho già avuto di gamba, ma ne butti di nuovo, cioè sottengo, 200 euro mi hanno rubato, non so se cosa, a Claudio lo stesso, l'hanno butti dello stesso periodo, hanno fregato altra gente, quindi ci vado molto coi piedi di piombo. Quello non era un venditore ufficiale, non era un negozio ufficiale di elettronica, era un privato per caso. Allora, la storia è questa, che io stavo partecipando a un'asta su eBay, però l'asta non me l'ho aggiudicata perché all'ultimo momento mi hanno fregato questo apparecchio, che era un Galaxy Saturn Echo. È arrivata Salvatore Maestrale, stavamo partecipando sia io che Salvatore Maestrale perché piaceva a tutti e due. E praticamente Salvatore, io poi vi dico una cosa che mi ha chiesto se voi siete d'accordo. E Salvatore mi ha detto già, mi è arrivato da questo tipo che dice di avere un negozio di radio, mi è arrivato questo coso che c'era scritto, ho visto che avete partecipato all'asta, non ve l'avete aggiudicata, io ho tre apparecchi praticamente nuovi, Galaxy Saturn Echo, vi do anche il microfono con 200 euro, se lo volete, dice se lo prendete in due ve lo lascio 200 euro e vi regalo anche le baby più 5. E Salvatore mi ha detto già lo facciamo, e il tempo già è affidabile questo, siamo andati sul sito, controllato, era tutto bello organizzata la storia, era un seller di quelli che ci aveva, come si chiamano, vabbè comunque già mi hai capito, un seller, e in più abbiamo guardato il sito, c'era tutto l'autotrasportatore che lo trasportava, tutto quanto ben fatto, abbiamo telefonato a questo qua e ci ha detto sì, mandatemi i soldi, prima arrivano e prima arriva l'apparecchio, lo dovete fare con West Union il pagamento. Salvatore ha mandato la moglie, gli ho dato i soldi, ha mandato la moglie e non abbiamo mai visto un cavolo, capito? Rubati i soldi, sono andato alla polizia postale e mi hanno detto che è un'organizzazione che si sposta da una città all'altra, che prendono le carte, poi l'abbiamo richiamato perché non arrivava e non rispondeva nessuno, loro prendono delle carte prepagate e possono solo telefonare loro e ricevere la telefonata e poi ce le buttano via, capito? Le buttano via, si ritirano i soldi e scappano. E poi Western Union, già vedendo quello, lonfissimo, una cosa fuori. Sì, quelle sono qui, Western Union, pagamenti su fattori internazionali, sì, come hai detto tu, cambiano regione, cambiano paese, nazione proprio, capito? Sì, non c'è tracciabilità come pagamento, capito? Tu non riesci a capire dove sono, perché prendono queste carte in Inghilterra, ha detto, per dire, ci sono queste carte telefoniche, dicevo, una telefonata la buttano via, non sanno né di chi è né di chi non è, lo prendi come tu se si prendendo una caramella, non ti chiedono né nome né cognome, niente, non sanno di chi sia, la vendono così allo smaraglio. Questa organizzazione dice lo sanno che prima o poi i ferri li rimetteremo, ma è un'organizzazione che vive in alberghi di prima categoria, con donne, champagne, fanno feste, capito, vivono una vita dalla babici quando li picchi, che è molto difficile beccarli perché si spostano dalla parte all'altra e non sai mai dove sono. Comunque Western Union, vabbè, è una cosa di trasferimento fondi legale, però viene usata spesso per cose legali. Comunque ricordati già, una volta che tu compri dai siti ufficiali come Yelettronica, Media Globe, HSP, da CSON, tutti, cioè tutti i venditori ufficiali non ti potranno mai fregare. L'unica seccatura, vabbè, che ti devi fare una prepagata che ricarichi solo dell'importo che vuoi, della roba che vuoi acquistare, tu lì. A proposito, poi ne hanno fregato un altro, è uscito sulla nuova, questo ha ricevuto un finto SMS della banca, vabbè c'è tutto sulla nuova, insomma ne hanno fregato un altro, 10.000 euro fumati, volati all'istante, quindi se ricevete SMS dalla presunta banca, anche se il numero corrisponde a quello della banca, non rispondete, non cliccate sopra, non mettete né nome utente e password. Se ricevete un presunto SMS dalla banca, telefonate voi direttamente alla vostra banca e chiedete chiarimenti, perché vi avvisano se è una truffa. Chi ti avvisa? Come qua? Ho detto chi ti avvisa? No, tu telefoni alla tua banca e dici, ma mi avete contattato voi oggi per questa irregolarità? E ti diranno, no, assolutamente, noi non abbiamo contattato, capito? Invece molti cliccano sull'SMS, probabilmente mettono nome, utente e password sul sito fasullo della banca, proprio roba creato identico al sito della banca. E da lì poi non so come sottraggano i fondi, quello è interessante da sapere, ci vorrebbe un esperto informatico a saperlo però. E come fai a sapere quando è la banca e quando non è la banca? L'altro giorno a me me ne è arrivato uno per dire che mi diceva che malgrado io avessi rinnovato la carta da poco, la carta di credito, dovevano cambiare tutte le carte di credito del San Paolo, poi non so se delle altre banche lo stesso, ma a San Paolo dovevano cambiare tutte le carte di credito e c'era tempo per versarla sino a dicembre 2021. Ma scusa, vabbè, ma quella è un'altra cosa. Ma basta telefonare alla banca, cioè voi avete una sede di una banca a Sassari, basta telefonare lì e dire questo messaggio è vostro, mi avete contattato per questo tipo di problema, e loro te lo dicono, capito? Invece questi truffatori, che a quanto ho capito sono sempre i soliti due napoletani, stanno razziando un bel soldi a un bel gente, sai quanti ne hanno fregati? Andiamo. Non avete letto il giornale cosa hanno fatto al figlio di Ventura, al dentista? No. Quindi è truffa organizzata. L'hanno chiamato con un 011. Praticamente la banca di Torino, la sua banca, la Banca Intesa di Torino. No? Questo si è spacciato per un funzionario della Banca Intesa di Torino. Ha detto lei ha un problema qui e là. Ci mandi la fotocopia dei suoi documenti che dobbiamo verificare. E quello ho detto va bene, datemi il numero del fax e gli ha mandato la copia dei documenti. Dopodiché quando hanno ricevuto la copia dei documenti, per far vedere che tutto è regolare, l'hanno richiamato e hanno detto guardi, la contatterà la sua banca di Sassari. Parlerà col suo funzionario, questi già sapevano nome, cognome, funzionario e tutto. L'hanno chiamato col numero di telefono di Sassari, capito? Col 079 il numero della banca, lui ha risposto subito perché ce l'ha memorizzata, è un dentista, c'ha soldi. E si è presentato questo, c'era scritto un giornale avanti ieri, si è presentato questo, sono dottor così, nome e cognome, mi dico, come chi lo conoscesse. E così, dobbiamo fare un'operazione, una transazione, perché non so che cosa è successo, cioè dobbiamo togliere 9.000 euro dal conto per fare questa transazione. E ci deve autorizzare, perché giustamente, o viene qua oppure mi autorizza a me, sa, ci conosciamo, sa, ah sì sì dottor, va bene, dai, allora va bene, mi dia il numero del conto che così facciamo. È arrivata l'operazione, tutto a telefono, ne hanno biliato 9.000 euro. Non vi grido. E vabbè, a Porto Torre se l'avevano fatta diversa, mettevano la telecamera nel banco, ma c'era un camper che io avevo già individuato da diverso tempo, passando, sai, ti accorgi, c'era sempre questo camper fermo proprio nei parcheggi del porto, e io dicevo, cavolo, ma questo camper perché è sempre fermo? Tra me dicevo, no, non c'era mai stato, per un mese l'ho visto, che sempre cos'era, all'interno ci avevano tutti i macchinari per clonare le carte, praticamente prendevano il numero di codice, quando tu lo digitavi ti clonavano la carta e andavano a ritirare i soldi e poi si rispendevano fuori. Una collega, la buonanima di Gavina Remico, gli avevano rubato 10.000 euro. Lo so, quindi state attenti, soprattutto quando chiamano questi consente e dicono Claudio Marti, e tu dici sì, quel sì, loro ti conferma. E preparano praticamente, così mi ha spiegato un funzionario della postale, ma è quel sì che tu dici, loro lo trasformano in un contratto, con quel sì tuo, con quella voce guida tua, loro cercano di farti dire sì, per dire, ma è lì di Sassari, tu dici sì, tutti quei sì che tu dici, loro li trasformano in un contratto, e ti arrivano contratti a casa allucinanti, e li paghi, perché c'è la tua voce guida, ma tu stai confermando il sì, hai capito? Infatti quando io sento, ciao, buongiorno, sono, ascolti, non mi serve niente a me, vai a fanculo, boom, e le chiudo il telefono. No, io dico, mi dica. No, non dico, mi dica, no. Come dica, è una carriera di fatta la droga, perché sono tutte, ma io non c'ho niente con gli stranieri, questa è la rumena. Buongiorno, io le facevo, non capisco, tanto molto, le dici, come? Tanto molto. Ci faccio, pronto? Scusi, non la sento, pronto? Alla fine chiudo loro. La volta ero mezzo, ma via un po' caretto e male girante. L'ha detto, ma chi non ti innanzi in ora amara a te? Era la cosa, era la foda come mai, la foda fuori un santo che ti ha creato, ma è in ora amara a Monti, ma a voci però, anche ero mezzo scalerato, vero? No, io parlo dal punto che loro sono persone che stanno lavorando, però chiamano in orari inadeguati, o quando stai mangiando, quando stai riposando, quando stai facendo qualcosa, ti chiamano sempre in momenti inopportuni, no? E quindi alla fine poi io, guarda, molto gentilmente dico, guardi, sto lavorando, non posso darle rete, e come la posso chiamare? Non lo so, guardi, perché io sono sempre fuori, mi guido e quindi sono fuori. E basta, le liquido così, senza prenderle a voce, perché sono persone che stanno lavorando altrù. E come noi, quindi, per poche lire lavorano, perché l'ha fatta anche mia moglie quel lavoro lì, quindi lo so. Ma lo sai come sono io, molte volte sono calmo, adesso non sto più rispondendo perché sono numeri di spam, quindi me ne accorgo subito, però molte volte faccio pure le balle girate, cioè ho le mie cose, ho me, adesso vedi che sono calmo, però molte volte quando gioco faccio di cose miei e comincio a bestemmiare, a fare, sono un po' insopportabile, e comincio già a mandare in ora mare un po' di gente, molte volte è così, e cosa vuoi fare? E così e basta. Vabbè, io ho detto, io ti ho detto, io una volta attaccato anche con una, mi ha detto che mi dava il numero di telefono, tutto quanto, che aveva una bella voce, tutto, cazzo ci aveva fatto il pappagallo. Ascolta, gliela potete mai fatta una qualche supercazzola a questi call center dell'est, soprattutto, tipo il codice cliente? No, ascolta, il fatto che ero in macchina quel giorno lì ed ero in compagnia della mia compagna, dai, si è incazzata un bel perché io stavo attaccando, si stavo al gioco, lì mi ha detto, c'è una bella voce, magari ci conosciamo, questo e quell'altro, io e lì se, alla fine si è girata, gli ha detto, ascolta, ma l'hai finito di rompere le balle, si è incazzata un bel e quindi e lei gli ha detto, sì, queste donne, ma chi è questa donna che sta gridando, che non ci lascia parlare, questa e quell'altro? Lei, spegni, spegni! Mi ha detto, se ti avessi lasciato fare, te l'avresti anche rimorchiata e le avresti dato il numero di telefono. Avete acciappato una bibucaccia in Italia? Sì, ma infatti, secondo me era di chi si chiudeva via, che facevano questi tipo, non lo so, boh, ma non ho capito manco che ditta fosse, no? Era giovane sicuramente, era una ragazza giovane, boh, e c'è stato il gioco, lì ci sono stato io, stavo giocando, non è che lo stavo facendo davvero, ma sai, ti piace quando ti faccio i complimenti? Ehi, complimenti. Se complimenti ha giurito una, io, tre due ne ha giurito. Stai ci stendo, perché lei paga troppo, perché qui là la nostra cosa, ma giurito, ma sai, nai, proprio come se ne hai molto ancora, da fracassare di tutti i guori. Sì, ma tutti qui siete sapere ancora, ma cosa vuoi dentro me, cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi. No, perché noi siamo, ehi, allora non hai capito che non mi interessa. Non le volevo chiudere il telefono, capito? Però alla fine mi ha costretto, ti ascolta, adesso mi hai stufato, vai a cagare, tu e la tua compagnia. A me una volta uno dell'Albania mi ha detto, mi stava allustando la porta, guarda, non mi interessa, io ho chiuso il telefono, punto. Oh, mi ha richiamato per dirmi che ero maleducato, che devo chiudere il telefono in faccia, che qua che l'ho detto, ma cosa vuoi, ma ti andate a cagare. Quello lì solo ho risposto male perché mi ha girato le scatto. Sicuramente è lo stesso mio già, la descrizione è la stessa. Lo sai, quello mi ha fatto sbloccare. Io ho detto, scusi, lei parla per conto di un'azienda italiana, io voglio parlare con un addetto italiano che parla italiano. Alla fine poi mi ha detto quattro. E quello mi ha richiamato a dire che ero razzista, che lui stava lavorando. E poi vanno sempre a parare al codice cliente, lo sai, no? Hanno il codice cliente, hanno il sì, che tu dici quando ti chiedono, lei parla itali. E poi fanno i montaggi audio per far risultare che tu hai accettato il contratto. Guarda, sono dei farabutti questi dell'est, no? Non mi fiderei più di tanto. Sicuramente lo stesso, qualche giorno l'ho salito malamente, ho sbroccato. Se mi ha richiamato, ho avuto il coraggio di richiamarmi a casa, per il bagno. Anche a me, mi ha richiamato, ha detto che ero maleducato, che ero razzista. E io ho detto, ma perché devo essere razzista io? Non è colpa mia se sei, cos'è, gli ho detto romeno, albanese, una cosa del genere. Ma in effetti l'altro giorno ho chiamato perché voglio cambiare il contratto nel telefonino del cellulare, perché mi fanno pagare troppo, 20 euro al mese, cavolo, e a volte non bastano, mi rubano soldi, ma non lo so cosa stanno facendo, perché non è possibile che tu se devi pagare per dire 16 euro, ne metti 20 e non bastano mai, non ho capito il perché. Adesso sto facendo un nuovo contratto e ho chiamato e mi ha risposto un albanese, come al solito. Ascolti, io vorrei parlare con l'Italia, è possibile, un operatore italiano. Mi ha detto, non le rispondo perché è tutto occupato, se vuole io glielo passo, ma non so se ce la faccia. E allora ha accettato che parlasse, ho detto, qual è il problema? Il problema, ha detto questo, ma sì, non c'è problema, dice, che adesso fra lì 29 fa una carica da 15 euro. E poi telefona alla tele, alla Vodafone, dicendo che vuole un nuovo contratto. E la Vodafone le rilascia il nuovo contratto. Solo se lo fa, diciamo, il contratto fisso, che preleviamo noi i soldi dalla sua banca, può farlo direttamente. Ascolti, lasci perdere, io lo voglio fare con la ricarica, appunto, non ne voglio il contratto fisso. Ehi, ma poi uno se vuol cambiare abbonamento o va a una sede del suo operatore o lo fa online. Questi sono assillanti, sono peggio delle zecche. Sono troppo invadenti. Vabbè, anzi ti dirò che rispetto una volta non chiamano più, forse dopo il trattamento che gli ho riservato hanno desistito. No, a me mi chiamano tutte le ore, l'energia, e questo e quell'altro, poi nelle ore più pensate, Marco, a volte sto riposando sul divano e mi addormento magari guardando la televisione, che mi guardo Furlong alle 4, sino alle 4, poi mi guardo quel film poliziesco che c'è, e dopo mi addormento, e mi addormento qui sul divano, e a volte cazzo squilla il telefono, proprio mentre sto proprio, sono come una pietra addormentato, mi squilla il telefono e mi ritrovo allora, sai quanto mi gira le scatole? Lo so, adesso rilancio l'oro. Una volta ho dato il codice cliente, non era una donna, perché alla donna magari poi lo pigliano come molestie sessuali. Gli ho dato il codice cliente, allora scriva, codice cliente mio è C-U-C-C-I-A-M-E-L-O, perché te ciuccia me lo gli ho dato. Ma ha bestemmiato qualcosa in valore, poi non so da dove siano loro, se sono Serbia, Cecoslovacchia, vabbè che non esiste più, già hai capito, e comunque un accento dell'est. Vai Claudio. Vabbè, così è esagerato, vai. Io quando uscite qua sotto, adesso mi ha tuffato, basta, io non voglio niente da lei, quindi per cortesia, basta, era mollo, provo a parlarle così, no? E giustamente, come dice Gianni, è gente che sta lavorando, non è che hanno un coso per chiamare, degli elenchi, delle cose, chiamano, però non mi fa cacciare balle, se ti dicono non voglio nulla, ciao, invece buon viaggio, vai a succhiare da un'altra parte se vuoi succhiare, voglio vedere lì. Ma poi sai cos'è? Spesso chiamano, sanno anche l'età, i nomi delle persone, chiamavano perché sanno che la mamma è anziana, no? Allora chiedevano, c'è la signora tra i tali? Ha detto, no, ci sono io, si parla con me oggi. Anche a me, c'è la signora Muggia, no, c'è, sono marito, cosa desidera? Perché mia moglie gli risponde sempre, capito? Di che contratti, di che gaggati, di che cose, ho detto mille volte, non rispondono mai, a tutti dimmi, vabbè stanno lavorando, sì stanno lavorando, ma sono dei fracassamenti di balle, perché non hanno rispetto né negli orari né nei nulla. Cazzo, a me un giorno mi hanno chiamato alle 11 di notte, alle 11 di notte, cazzo mi sono buono sul caldo. Infatti, abbiamo parlato anche l'altro giorno, e quelli che vengono a casa pure, sempre parlano plurale, noi siamo qui per applicare riduzioni della tariffa, e poi quando li mandi via dicono, ah, quindi lei preferisce pagare di più? Sì, ho detto, finché bisogna, non è un problema suo comunque, mi ha detto una cosa del genere, è una stravaganza allucinante. Infatti c'è cosa di l'acuto a te della mia tariffa, ma io sono contento, perché infatti io sono con Enel e non cambio la nessuna parte. Se ti dico che non mi interessa, basta, arrivederci, buongiorno, grazie, no, insisto, non è quando uno insiste, mi si girano i pimistri, capito? Mi si bocca le gamasisi e allora parto. No, perché ti dicono che adesso non c'è oggi, c'era una specie di... Non so, un discorso che è vero, però dice lei è obbligato, non so, a cambiare, è obbligato. Alto, quando mi punteranno una pistola alla testa, forse cambierò operatore, tipo Enel Energia o quella roba lì, capito? I valenti sono comunque. Bene ragazzi, io vi saluto che è pronta la cena. Un abbraccio a tutti se ci siete, a dopo, altrimenti a domani, ok? Non so chi c'è rimasto, ciao Gianni, Bombolo, a te Marco e chiunque sia in ascolto. Ciao a todos. Salutoni Claudio, ce la risentiamo alle prossimine. Avanti già. Siamo quasi tutto il giorno in radio, tra una pausa e l'altra, però abbiamo scelerato oggi. Oggi l'abbiamo presa a ridere così, a parlare di nulla, dai. Però almeno è passata la domenica. Vai Gianni. allora, forse abbiamo parlato insieme, dai, ciao Claudio, ci sentiamo, buona serata. E sto chiudendo anch'io, Marco, dai, che vado a portare giù il cane, mi cambio, porto giù il cane, non a giugana, perché sono al calduccio, si sta così bene sotto le coperte, e poi c'ho quella in pile, quella calda calda, mamma mia che bella. Oh, io sono arrivato adesso, Ciao. Ciao, anche a Claudio, sta andando a cenare. Sono Ghinocchi, io Ghinocchi. Cazzo, sono andato via con la cuffia, la sciarpa, giù vuoto, poi la felpa con il cappuccio, un freddo. Oh, Luca, e beh, come sta, Dea? Per il momento sta bene, dai. Sta bene, si sta rosicchiando l'osso, quello adatto, là, che per farsi i denti. Sembra che sia tranquilla. Quanto poi ha preso un colpo a testa, già. Serena! E da dove è caduta? Tu non ti sei accorto di nulla. Se non c'ero io già, a casa della mamma, E magari è caduta e si è sbattuta la testa. Non c'è però qualche trauma. Tempo, adesso te ne faccio vedere la sto controllo, vediamo un po'. Se lei torna magari, a quanto pare ha le... come si chiama? Le... epilessia. No, non ci credo. Non lo so, se vediamo. Dai, attimo un attimo di tempo che mi metto... come si dice, comodo, e poi riprendo. Kappa, dai, io ti auguro che non ci abbia nulla. Babbo, dai, ci sentiamo. Ma ok già, dai, ce la risentiamo. Hai voluto un cane? Ah, va, pedala. Stai chiudendo già? Stai a portare il cane, Luro, non l'ho ancora portato. Va bene, dai, adesso sono qua nascosto, dai. Dopo una cosettina veloce e poi riprendo. Ma gabba, cazzo una gannonata è però, vizio, minchia. Non c'è più, Paponio! E non c'è più, no. Marco, comunque mi sto accorgendo che sto qua una cannonata, Sto uscendo, sto, sì. Ola, 1, 2, 3, prova. Abbo di gasso. Ola. Ero in bagno, chi c'è rimasto? Marco, io ci sono. Io entro, sono rientrato per i saluti perché, mamma mia, c'avevo la vescica, c'era stato un litro, mi stava scoppiando la vescica, sono dovuto correre in bagno. E quindi dai, per oggi basta e ci sentiamo quando capita. Quindi se c'è ancora Gianni, ciao Gianni, Luca, Antonio, vabbè, tutti quelli che ascolto, ritenete di salutarti, ok? Ci sentiamo, ciao, buonanotte. Capa Marco, vai. Io allora chiudo, capo, ci siamo un bel di ore in radio. Di ore. Comunque Ghiccio, se mi accorgo che una gannonata, non cagli nulla. Minchia cazzo. Molto buona la modulazione, l'ultima cosa, molto buona la modulazione. Diciamo abbastanza nuova, ma mai quando. Come quando sei liscio. Migliore dell'altra però, migliore dell'altra. Vabbè, questa è una cannonata, Poi non mi ha detto che arrivavo fortissimo su. Ok, dai, ce la risentiamo, dai. Mi ha fatto piacere, dai, grazie di tutto il qua show. Oggi ce l'abbiamo chiacchierata veramente, dai. Facciamo così, abbiamo passato una bella domenica. Ciao, ci risentiamo, ciao a tutti gli ascoltoni, ciao a tutti, saluto a tutti, ciao. Ciao a tutti, ciao. Tutta la sera attaccati a sventiare il 27, Antonio, io adesso mi sono accettato. Che? Intanto PMR qua e là. Aspetta che spacchi abbasso, no? Abbasso. No, mi sono acceso la TV, mi stavo per fare un caffè perché se no mi addormento subito con la TV e mi sveglio dopo. Hai capito Antonio? Quindi abbiamo chiuso tutti, ormai basta. Siamo dalle 2 in radio, con qualche pausa, ma è tutta la sera, oggi l'abbiamo presa a sclera proprio. Già ho capito, non ti preoccupare per quello, non è problema, aspetta. Ora. Ho sempre creato un PMR con l'amico di Rostenale, capito? E parliamo di ma non ho capito bene da dov'era, quale ospedale però? Il civile, vabbè, dov'era in poche parole? Civile, non ti preoccupare. Cavolo, eppure lì è abbastanza aperto, Guarda che io sono in basso, te l'ho detto, piano rialzato, è come che se fossi sulla sede stradale, Antonio, perciò non arrivava né in antennino né in antenna esterna con ricevitore, capito? Infatti io sentivo il ricevitore che parlare solo a te, non sentivo nessun altro, capito? Sì, ma qui non esce nessuno, il discorso è quello. È chiamato armato, non esce nessuno, il discorso è quello. Purtroppo è così, ho già fatto la prova io una volta. Fuori appunto il soccorso, se ne spostava verso, per dire, verso le ambulanze, il discorso è quello. Mi sentiva, se no niente. Purtroppo è così. Bisogna accontentarsi. Sì, è vero, comunque lì tra il cemento, il metallo, tubi che passano contro tubi, strutture, cavi elettrici, lì è schermato di brutto, Antonio, perché abbasso di nuovo, cacchio. Ma lui cos'ha? Gli ho tolto per caso? No, gli ho prestato... Già lo sai, quella parte lì, quello mi hai messo a posto tu, tipo 5 del Popus, quindi non escono niente a un certo punto, quindi tu per uscire, cioè per copiare io loro, devo uscire fuori, il discorso è quello. Cavolo, ma o sono sordo io? Non riesco a capire che apparato è e non mi ricordo nemmeno che apparato ho fatto e quanto tempo fa pure. L'UV5 e l'EPU+, io sei quelli portatili con display. Ah, vabbè, ma 1000 anni fa, quanti anni è? Sa, 3-4 anni fa, forse 5, una cosa del genere. Figurati, io manco mi ricordavo cosa ho mangiato ieri, figurati se mi ricordo gli apparecchi programmati 5 anni fa. Sì, ho provato in tutti i modi a muovere l'antenino, a spostarmi, ma non zero totale. Non arriva nulla, arrivavi solo tu. Vabbè, purtroppo roba UHF, Antonè, cioè, se ti fidi manco il portatile esce da quelle strutture tutte cemento e metallo, cioè manco in 27 col portatile riesce a uscire da lì. Bravo, ci sei arrivato, infatti casino. Comunque sia, non esce assolutamente nulla da lì, ma da quello del fuoco dove ci sono le ambulanze, ti capito, nell'angolo. Sì, dovresti andare in qualche piazzale che sia comunque libero dai muri cemento, dai luoghi chiusi, e lì è tutto, te l'ho detto, tutto cavi elettrici, tubi, cemento, è un casino. Guarda, io anche quando ho portato il ricevitore tanti anni fa in ospedale per ascoltare gli animatori, così se anche mamma doveva fare visite, dentro ben pochi segnali passavano. Ma proprio passa nulla, il discorso è quello, proprio schermata. Una roba schermata proprio. Sì, lì più che mai, con tutte le strutture che passano all'interno dei muri o il canalette, quello che è adesso, non so. Bene, Antone, io stacco. La TV è già accesa, mi faccio sto benedetto caffè. Tanto non mi tiene sveglio comunque, e poi ci sentiamo quando capita. Domani mattina devo andare al commercialista, che palle, mi devo pure alzare un po' prima, un bel prima. pazienza. Ok, senti di Montane, ciao, bacione, saluta Simone. D'accordo, ok, a domani, buonanotte, ciao.